giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La siccità tiene banco anche nelle istituzioni, ne hanno parlato ieri alla Camera dei Deputati il Ministro delle Risorse Agricole Patuanelli e in Consiglio regionale gli assessori Zani e Rescocimarro. Sta partendo una nuova campagna vaccinale che oltre a ottantenni e fragili ha come potenziali utenti tutti gli ultrasessantenni. Le truffe online sono sempre più frequenti, il caso di una donna friulana che si è vista involare migliaia di euro. Purtroppo nessun esito dall'ennesima ricerca organizzata ieri a sue spese dalla famiglia sui monti di Cogne del cinquantenne triestino Raffaele Rinaldi. L'Università di Udine si è presentata ai nuovi studenti e apre 3 giorni le porte di aule, biblioteche e servizi di tutti i poli didattici e di ricerca. Venerdì ritornano le proiezioni sotto le stelle nel giardino pubblico di Trieste, che diventa così il giardino del cinema. Ogni giorno un film diverso fino al 30 settembre. A Gorizia il via al premio Amidei con il regista premio Oscar Azanavicius. Madame in concerto a Grado e a Udine parte il festival di danza urbana. Calcio, goleada dell'Udinese per la prima uscita stagionale pre-campionato in Austria. Mercato, il Pordenone riaccoglie Deli, 3 acquisti per la Triestina. Alle 7:19 minuti e 28 secondi di giovedì 14 luglio, un cordiale buongiorno da Ludovico Fontana e Armando Mucchino a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto apriamo con la pagina del tempo, cielo da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 5. Trieste 21 gradi, mare calmo con temperatura di 24 gradi e 5 decimi, Pordenone 19 gradi e mezzo, Udine 19, Gorizia 17, Tolmezzo 19 gradi, Forni di Sopra 15 gradi e 5 decimi, Tarvisio 15 gradi, Piancavallo 13, Sappada 12 gradi e mezzo, in quota su Lussari 16 gradi e mezzo e sullo Zoncolan 15. Tornando sulla costa, Lignano e Grado 22 gradi e mezzo, con temperatura del mare di 26 gradi e 5 decimi. Passiamo alle previsioni dell'ARPA delle Friuli Venezia Giulia. Per oggi su tutta la regione cielo in genere variabile, la nuvolosità sarà più consistente al mattino, mentre nel pomeriggio tenderà a dissolversi su pianura e costa, dove il cielo diverrà sereno o poco nuvoloso. Sui monti nel pomeriggio non si esclude qualche isolato rovescio, specie verso il Cadore. La siccità, come avete sentito in apertura del giornale, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli è intervenuto alla Camera dei Deputati in merito alle iniziative per salvare l'agricoltura, molti i raccolti a rischio anche nella nostra regione, che fra quelle dove lo stato di emergenza è già stato deliberato la settimana scorsa. Il servizio da Roma di Francesca Cosentino. La situazione è così critica che più che parlare bisogna solo fare. Il ministro per l'agricoltura Stefano Patuanelli in aula alla Camera nel pomeriggio ha illustrato tutti i provvedimenti che il governo sta adottando per l'emergenza siccità che ha messo in ginocchio il comparto agricolo tutto, dal cerealicolo all'ortofrutticolo, per mancanza di pioggia, temperature elevate e incendi. Aumentare la capacità di stoccaggio di acqua, modernando gli invasi esistenti, realizzando nuove opere a livello territoriale e aziendale, rinnovare e rendere efficiente la rete idrica riducendo le perdite e garantendo un monitoraggio puntuale degli usi, promuovere un uso razionale della risorsa idrica nel settore agricolo ed industriale, privilegiando le tecniche di agricoltura di precisione, agricoltura 4.0. Dunque un piano imponente che prevede fondi europei e nazionali e soprattutto quegli oltre 4 miliardi del PNRR che devono servire a ristrutturare la rete idrica che perde acqua fino al 36%, costruire invasi, modernizzare gli impianti irrigui e poi una serie di interventi a favore degli agricoltori per sostenerli con un decreto a fine luglio con un fondo fino all'uscita dall'emergenza, stato di emergenza che potrebbe essere esteso, ha detto il ministro, anche ad altre regioni come Lazio, Liguria, Umbria e Toscana. D'altra parte comuni e regioni ascoltati poco prima sempre alla Camera sul problema siccità hanno invocato proprio interventi a medio e lungo periodo, certi che la questione si riproporrà negli anni futuri, ed hanno chiesto di realizzare una campagna di sensibilizzazione dei cittadini per un uso responsabile dell'acqua. Il servizio era di Francesca Cosentino e sulla siccità che sta interessando anche le Friuli Venezia Giulia in Consiglio regionale sono intervenuti anche gli assessori all'agricoltura e all'ambiente. Una regione come il Friuli Venezia Giulia, notoriamente ricca d'acqua e precipitazioni, sta vivendo la peggior siccità che i dati abbiano mai registrato. Da dicembre a questa parte le precipitazioni sono state scarsissime e le falde acquifere si sono abbassate sotto il livello minimo registrato nel novembre del 2003. A spiegarlo in aula l'assessore all'ambiente Scocimarro, che assieme al collega per le risorse agricole Zanier ha quantificato nel dettaglio le portate sempre più ridotte dei corsi d'acqua e dei loro bacini e le conseguenti misure di razionamento. I razionamenti dei consorzi garantiscono, secondo Zanier, per altre 2 o 3 settimane almeno un'irrigazione di soccorso. La situazione sul territorio è tuttavia disomogenea. La sola irrigazione di soccorso è già stata attivata tra Torre e Zampitta e gli impianti di Muzzana, Pocenia e Rivignano Teor non riescono più a portare l'acqua a tutti i terreni. Particolarmente critico è l'abbassamento della falda nel Medio Friuli e oggi i due assessori saranno al tavolo tecnico sul razionamento dei pozzi artesiani con sindaci, ARPA, Università di Trieste, geologi e consorzi. Per un settore, quello dei pozzi, che non è l'unico però che va ovviamente chiamato a responsabilità, senza nulla togliere a chi ha avuto questo beneficio, e poi andare a chiedere a tutte le altre categorie industriali e anche agricoltori la responsabilità di utilizzare al meglio la risorsa idrica. Per affrontare le emergenze, Scocimarro assicura anche che la protezione civile è pronta a trasportare l'acqua con le autobotti agli acquedotti dai torrenti che non sono collegati alla rete. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina con la quarta dose di vaccino contro il coronavirus. Già questa mattina inizieranno le prime inoculazioni agli over 60 e ai pazienti fragili sopra i 12 anni. Dalla prenotazione di ieri emerge un certo interesse anche da parte degli ultra ottantenni che finora avevano temporeggiato. Prime inoculazioni al via già da questa mattina. Inizia ufficialmente la campagna vaccinale per la cosiddetta quarta dose per gli over 60 e per i pazienti fragili sopra ai 12 anni. Il sito web della regione Friuli Venezia Giulia per le prenotazioni è stato riattivato ieri nel pomeriggio. Nella mattinata, tra CUP e farmacie, sono state raccolte 393 prenotazioni. Sembra che la notizia abbia risvegliato l'interesse a vaccinarsi anche degli over 80 che già potevano farlo prima. Una decina gli vaccinali distribuiti sul territorio, a Trieste per esempio, sempre alla centrale idrodinamica, a Monfalcone invece al centro prelievi del San Polo. I medici di base si sono resi disponibili ad effettuare le vaccinazioni presso i loro ambulatori o, per i pazienti fragili, a domicilio. La prenotazione verrà fatta direttamente chiamando il proprio medico di base, che aderisce a titolo volontario. I medici di medicina generale ospiteranno anche in autunno la campagna vaccinale quando, alla vaccinazione anti-Covid aggiornata alla variante Omicron, ci sarà anche la vaccinazione anti-influenzale. Ringrazio il personale impegnato in questa nuova campagna l'assessore alla sanità Riccardo Riccardi per la disponibilità riscontrata. La pubblicazione in Gazzetta della delibera era prevista per oggi, invece è stata anticipata di più di 24 ore e quindi l'agenda è stata aperta prima. La dose booster verrà fatta con vaccini mRNA Pfizer o Moderna, per i ragazzi fragili dai 12 ai 17 anni solo con Pfizer. Per le persone fragili va compilato e consegnato in sede di vaccinazione il modulo apposito indicante la patologia. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E continuano a crescere i contagi in regione, ieri registrati 2.247 nuovi casi rispetto ai 1.931 di mercoledì scorso. L'incidenza sale a 1.070 nuovi casi per 100.000 abitanti in una settimana. Rimane ai massimi storici il tasso di positività, che sfiora il 26%. Ci sono 5 persone in terapia intensiva, una in meno di martedì, e 216 negli altri reparti Covid, 15 in più. Ieri è stato registrato un decesso. Anche d'estate i truffatori non vanno in vacanza, anzi intensificano le loro malefatte che corrono sempre più anche sulla rete. Quando ho chiesto indietro un po' di soldi, almeno per cominciare ad avere la fiducia nel rapporto che lui mi aveva proposto, non me li ha dati. Nel giugno 2021 Gianna Liani, artista della provincia di Udine, presenta una denuncia. Qualche mese prima viene contattata da un uomo dall'apparente accento straniero. La convince a effettuare un primo investimento in criptovalute, 250 euro, poi altri 1.000, poi altri 10.000. Se ti fermi, le viene detto, non puoi riscuotere il credito maturato. Mi avrebbero dato 49.700 euro se io avessi versato altri 9.700 che sarebbero arrivati a 20.000. Sinceramente so per certo adesso che sarebbe stata la seconda truffa. L'Associazione Consumatori Attivi raccoglie segnalazioni come questa ogni settimana. C'è chi ha perso anche 100.000 euro, non solo criptovalute, ma anche fantomatiche piattaforme di trading online. I soldi prendono le vie di Estonia, Lituania, Polonia. Non mancano i ricatti per chi cerca di uscirne. Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Vengono chiamati da dei soggetti che si spacciano come forze dell'ordine oppure come rappresentanti delle autorità di vigilanza del settore bancario e finanziario e vengono spinti a versare altri soldi, parliamo di decine di migliaia di euro, per poter evitare dei procedimenti penali per aver versato delle somme all'estero oppure per non aver pagato delle tasse per aver effettuato queste operazioni sempre all'estero. Giuseppe Antonacci, comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Udine. Negli ultimi 2 anni abbiamo visto un incremento del numero di persone che viene truffato online. Per difendersi sono delle tecniche abbastanza semplici, bisogna essere abbastanza diffidenti. Quindi nel momento in cui veniamo contattati, spesso da call center o ban che compaiono sulle nostre pagine social, basta prendere questi dati, cercare su internet online per capire cosa c'è dietro e, se abbiamo dei dubbi, anche sul sito della Consob, dove sono riportati tutti i soggetti autorizzati e tutti i soggetti già bloccati. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Purtroppo anche le ricerche di ieri non hanno dato alcun esito. Solo il falso allarme di un cane di ricerca che aveva segnalato una pista ma poi risultata infruttuosa. Da 50 giorni non si hanno più notizie di Raffaele Rinaldi, il fisioterapista cinquantenne originario di Trieste di cui si sono perse le tracce il 22 maggio scorso sui monti della Val d'Aosta nella zona di Cogne. Ieri una quarantina di persone che hanno risposto ad un appello della famiglia che ha sostenuto tutte le spese sono tornate sui posti dove si pensa che Rafael possa essersi perso. Fra loro volontari giunti in zona da Trieste, da Milano, gente del posto e da Chamonix, la località francese dove ha sede la clinica dove Rinaldi lavorava. Ad accompagnarli 2 guide alpine e una squadra con cani specializzati nella ricerca di persone. Un elicottero li ha portati in quota e poi ha perlustrato dall'alto l'area. È stato l'ultimo tentativo, ci ha detto il fratello e nostro collega Andrea Rinaldi. Siamo però amareggiati per il fatto che una nostra richiesta, fatta sua dalla Procura della Repubblica di Aosta, non abbia ancora avuto esito. Abbiamo chiesto a Google e Facebook di sbloccare le password di un telefonino inglese che aveva con sé. Sarebbe così possibile una geolocalizzazione puntuale, precisissima, che potrebbe aiutarci. Per ora, a 3 settimane dalla richiesta, dai colossi del web nessuna risposta. Un silenzio che ci fa molto male, ha concluso Andrea. Dopo la mega rissa che a Lignano lo scorso sabato sera ha coinvolto una 60ina di ragazzi e ha provocato il ferimento di un giovane ancora ricoverato in condizioni serie in ospedale, sono in arrivo misure antimovida. Ieri mattina si è riunito il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza per agire d'anticipo prima che il fenomeno diventi difficile da estirpare. Queste le parole del prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, per arginare la cosiddetta mala movida. Alla riunione del Comitato per la Sicurezza presenti anche la sindaca Laura Giorgi, il comandante della Polizia Locale, le associazioni di categoria e l'ente concessionario dell'area marittima. Le istituzioni ribadiscono come Lignano sia una città sicura e lo dimostra anche il dato sui reati. Sono diminuiti rispetto all'anno scorso. Intanto è stato aperto un posto di polizia che ha di fatto raddoppiato il numero di agenti in città. La sindaca sta lavorando ad un'ordinanza per limitare il consumo di alcolici, aumentare la videosorveglianza e l'illuminazione pubblica e anche limitare l'orario di apertura di alcuni locali. L'ordinanza comunale antimovida è attesa per le prossime ore. Un evento in contemporanea a Genova, a Napoli e alla stazione marittima di Trieste per parlare delle potenzialità dell'economia del mare italiana. Lo organizza il Sole 24 Ore. A partire dalle 10.30 interverranno rappresentanti del mondo industriale, accademico e politico. Fra gli interventi anche quello del ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Aprirà i lavori invece il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Lo abbiamo intervistato. Incredibilmente l'economia del mare è un'attività, un settore dell'attività economica troppo a lungo trascurata. nonostante quello che abbiamo detto, quello che abbiamo scritto, però l'economia del mare non ha quel posto importante che dovrebbe avere nelle priorità di sviluppo del paese. Quindi abbiamo deciso di dare un'accelerata con questo evento di carattere straordinario condotto su tre piazze, Trieste, Genova, Napoli, ed è il momento giusto per farlo in quanto il PNRR dedica circa 5 miliardi agli investimenti proprio nell'economia del mare, quindi è giusto porsi delle domande e cercare di dare risposte adeguate, esattamente quanto serve per la giornata di oggi che abbiamo programmato. Prima della pandemia, prima che il mondo cambiasse, il porto di Trieste in particolare guardava alla Cina e alla nuova via della seta. Adesso gli scenari sono completamente cambiati. Credo di sì, ma attenzione perché basta poco e cambieranno ancora. E quindi bisogna avere molta flessibilità, capire che certo una fase della globalizzazione è finita, ma non è ancora chiaro che cosa arriverà dopo. Può essere una nuova globalizzazione in forma diversa da quella che siamo stati abituati a vedere all'opera, oppure può essere anche un mondo spaccato in due blocchi. Comunque sia, i porti avranno un ruolo chiave, è bene esserne consapevoli e prepararsi alla bisogna. All'Università di Udine sono partite ieri le immatricolazioni e proprio per i neoiscritti l'Ateneo lancia 3 giorni di open day e di confronti con tutor, docenti e dottorandi e la possibilità di visitare le aule e le biblioteche di tutti i poli universitari, anche a Gorizia e a Pordenone. Ai primi posti per l'occupazione, terza in Italia fra i media atenei per occupabilità dei laureati nella classifica Censis 2022-2023, quarto posto per il tasso d'occupazione dei laureati magistrali e l'Ateneo di Udine che ha presentato la sua offerta formativa per l'anno accademico 2022-2023 nel corso di un incontro con la stampa nella giornata di apertura delle immatricolazioni. 78 corsi di laurea, di cui 39 triennali, 36 magistrali e 3 a ciclo unico, 13 corsi internazionali con rilascio del doppio titolo e altre novità. Roberto Pinton, rettore dell'Università di Udine. 3 nuovi corsi di laurea che guardano anche a professioni nuove, in particolare filosofia digitale, tecniche dell'edilizia del territorio e una nuova laurea magistrale in scienze motorie che si svolgerà peraltro a Gemona, dove stiamo costruendo tutta una filiera dedicata a questo ambito. Potenziato l'attività di tutor durante il percorso, soprattutto nei primi anni, per evitare la dispersione. 2 nuovi insegnamenti, uno in lingua e cultura araba e uno in lingua e cultura giapponese per gli iscritti al corso di laurea in mediazione culturale. E non è tutto per il prossimo anno accademico. Il tetto ISEE della no tax area sale a 26.000 euro dai 23.000 precedenti e tanta altra agevolazione agli studenti. Un'università che punta sulle lezioni in presenza ma che ha fatto tesoro dell'esperienza passata mettendo a disposizione degli studenti tutto il materiale didattico online. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 17 è convocata la prima seduta del Consiglio Comunale di Gorizia dopo le elezioni che hanno visto la conferma di Rodolfo Ziberna dopo il ballottaggio. È previsto il giuramento del primo cittadino, la comunicazione dei componenti della giunta, la presentazione delle linee programmatiche. 19 su 40 i volti nuovi dell'Assemblea. Via libera dal Consiglio regionale all'unanimità a 2 disegni di legge della Giunta sulla semplificazione e sulla disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve. Entrambi i DDL sono stati approvati anche con emendamenti presentati dalle opposizioni. È la prima volta che 2 disegni di legge di maggioranza vengono approvati all'unanimità nella stessa giornata, ha sottolineato il Presidente dell'Assemblea, Piero Mauro Zanin. Oggi i lavori riprenderanno con il question time e la discussione di 4 mozioni presentate dai consiglieri. A fine mese approderà in consiglio invece la manovra estiva di bilancio. Venerdì tornano le proiezioni sotto le stelle al Giardino Pubblico di Trieste, che diventa così il giardino del cinema. Commedia romantica ambientata nella California degli anni 70 sulle note di David Bowie, Paul McCartney, The Doors. Sarà Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson a inaugurare venerdì alle 21 la prima rassegna cinematografica all'aperto della Casa del Cinema di Trieste. Ogni giorno un film diverso fino al 30 di settembre. Proiezioni sotto le stelle nel giardino pubblico di Trieste, che diventa così il giardino del cinema, con film di successo dell'ultima stagione, titoli in versione originale, film per famiglie e cinema d'autore. Mariella Magistri, presidente della Casa del Cinema di Trieste. Significa lavorare per restituirlo alla città. La città ad ogni target, dai bambini agli anziani, alle persone che comunque vedono nel giardino pubblico non solo un polmone verde, ma una parte della loro vita, della loro infanzia e della loro maturità. Restituirlo alla cultura e alla città e da ogni punto di vista. Non a caso è il giardino pubblico protagonista di questa novità, amato dai triestini, ma da qualche tempo purtroppo teatro di fatti di cronaca con episodi di spaccio, tanto che poche settimane fa la polizia lo scelse per fare un evento dedicato alla cittadinanza. In questo contesto che diventa importante riaprire il grande bar sulla piazza, chiuso da anni, ma che ha bisogno di un'importante ristrutturazione. Il comune di Trieste dice di contare nei soldi del PNRR. Serena Tonel, vice sindaco. Certo è che è uno spazio storico molto amato dai triestini, è uno spazio da vivere per il verde ma anche per i momenti culturali, uno spazio storicamente dedicato a questo e che sicuramente potrà avere anche uno spazio di ristoro a servizio proprio dei cittadini che usufruiscono del verde pubblico. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 7:39 il calcio. Ieri prima amichevole stagionale per l'Udinese in ritiro a Linz in Austria e goleada per la squadra di Sottil, che ha battuto 11-0 i padroni di casa del Rapid, squadra che milita nella quarta serie austriaca ed è allenata dal padre del neoacquisto bianconero Lovric. E proprio il centrocampista della nazionale slovena si è messo in evidenza nel match segnando due reti, doppietta anche per Makengo e Arslan, un gol a testa per Nestorovski dello Feu Pereira Saxese e per il giovane Coccia. Soddisfatto mister Sottil per l'atteggiamento e il ritmo. C'è tanta voglia di far bene. Abbiamo iniziato con il piede giusto, ha dichiarato a fine gara. La prossima amichevole si gioca dopodomani, sempre a Linz, contro i tedeschi dell'Union Berlino. Sul fronte mercato il Pordenone conferma Francesco Deli, arrivato lo scorso gennaio in prestito dalla Cremonese. Il trequartista, svincolato da inizio luglio, ha firmato per 2 anni. La Triestina invece ieri ha annunciato 3 acquisti. L'attaccante Andrea Adorante, che arriva a titolo definitivo dal Parma, l'anno scorso era al Messina. Il giovane portiere Davide Mastrantonio, in prestito dalla Roma, l'anno scorso ha giocato in primavera, e l'esperto centrocampista Federico Furlan, lo scorso anno alla Ternana in B. Cambiamo sport. Secondo colpo di mercato per la Pallanuoto Trieste in vista del campionato di Serie 1 femminile. La società ha ingaggiato con un contratto annuale la centroboa Daniela Vomastskova, nativa di Brno in Repubblica Ceca, classe 2001, proveniente da Lilla, dove ha vinto 2 scudetti. Quella che sentite è la voce di Madame nel suo ultimo singolo, L'Eccezione, vero nome Francesca Calearo, la giovanissima cantautrice e rapper vicentina, considerata una delle rilevazioni musicali di questi ultimi anni, arriva stasera a Grado per il suo tour estivo. Madame, che l'anno scorso ha partecipato a Sanremo nel 2021 ha partecipato a Sanremo con il brano Voce, presenterà le canzoni del suo album d'esordio Madame, che ha raccolto complessivamente 14 dischi di platino fra album e singoli. In questi ultimi anni Madame ha collaborato tra gli altri con Fabri Fibra, Gali, Marrakesh, Marco Mengoni e i Negramaro. L'appuntamento è alla diga Nazario Sauro di Grado e rientra nel calendario di Grado Festival Incontri d'autore. I cancelli apriranno alle 20, la musica comincerà alle 20:45 con in apertura il giovane rapper monfalconese Resem Bredi. E ieri a Gorizia il concerto per la pace. 6 artisti sul palco, tra cui le 3 violiniste che erano state escluse dal concorso internazionale Lipizer per la loro nazionalità. La musica sconfigge ogni divieto. Anastasia Pentina, Carolina Sciukis e Lidia Kocharyan suonano a Gorizia dopo che gli organizzatori del concorso internazionale Rodolfo Lipizer le avevano inizialmente bandite e poi riammesse. Ad impegnarsi personalmente per la loro esibizione l'assessore alla cultura del comune Fabrizio Reti ed il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, che ha donato loro la versione microcalligrafica della Divina Commedia, il cui originale è conservato nella biblioteca statale Isontina. Sentiamo Lidia Kocharyan. This is against human rights. È contro i diritti umani quello che hanno fatto. Tagliarci fuori perché siamo russe mi sembra un'aberrazione, e anche se ci hanno riammesso al concorso non parteciperemo. Carolina Averina. Sto cercando di fare in modo che lo shock di questa esclusione non influenzi il mio rapporto con la musica, esprimermi con la musica senza risentimento. Anastasia Pentina. Sono onorata di essere stata invitata e voglio ringraziare il sindaco e tutta la città per il sostegno che ci hanno offerto. Sul palco, oltre alle violiniste russe, anche Umberto Tristi al pianoforte, il bulgaro David Diakov alla chitarra e la cantante ucraina Veronica Foia. La gente sta morendo e ovviamente noi ucraini abbiamo paura, ma se l'odio e la guerra dividono, la musica unisce. Il concerto per la pace è il primo dei 12 appuntamenti della rassegna Note in città fino al 23 settembre. Il direttore artistico Claudio Oliviero. In particolare quest'anno ci saranno 2 concerti. La Gorizia Guitar Orchestra è un esperimento, la mia orchestra di chitarre, che suonerà il 13 a Cocevaro, nelle valli di Natisona, 2 settimane dopo, il 20 agosto, a Rutars, con un programma completamente diverso. Il concerto di Ferragosto nel giardino di Palazzo de Grazia sarà dedicato al cantautore goriziano Gino Pippia. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Le 7.44, siamo alla rassegna stampa, cominciamo dal piccolo di Trieste. Il titolo di apertura è sul piano comunale delle opere pubbliche. Dal Porto Vecchio alla Cabinovia l'allarme rincari. L'assessore Bertoli, lo Stato intervenga o non ne veniamo fuori. Intanto partono le lettere ai residenti del Carso per il preavviso di sopralluoghi proprio per la Cabinovia. La fotonotizia in alto invece su altri lavori in città. Così cambia Roiano, giù il muro perimetrale attorno all'ex caserma che diventerà un'area polifunzionale. In prima pagina poi il Covid fra contagi in risalita e l'avvio delle prenotazioni per la quarta dose. I temi nazionali con lo strappo di Conte, non voteremo la fiducia al governo Draghi e un approfondimento sul reddito di cittadinanza. In regione va a 12.000 famiglie, in Porto Medio 427 euro al mese. Fra le altre notizie, Varzila, crescono i timori per il futuro dello stabilimento. Per la cronaca, dimessa la bimba finita in rianimazione per un sondino. Infine, lutto in città, addio a Ennio Fedele, l'artista delle luci che illuminò Trieste. L'apertura della prima pagina del Messaggero Veneto oggi in edicola è dedicata all'Università di Udine, che taglia le tasse e offre nuovi spazi e corsi. La fotonotizia di centropagina è dedicata a Lignano e ritrae 2 poliziotti in perlustrazione. Stop ad alcol e nuovi divieti dopo risse e schiamazzi è il titolo. Nella colonna di sinistra dedicata alla politica c'è anche un richiamo alle mosse dei partiti in vista delle elezioni regionali del prossimo anno e il Dem Cristiano Sciauri annuncia che non sarà il prossimo candidato del PD. All'interno, a pagina 16, tutti i nomi in ballo per il prossimo presidente. 2 richiami di cronaca a destra con la prossima mostra di Casa Cavazzini che costerà 1,3 milioni e il malore di un ragazzo soccorso ad un centro estivo dopo uno svenimento. Dal convitto di Cividale poi la bella notizia che la giovane Daphne Comelli ha superato la maturità classica con il massimo dei voti, saltando la quinta. Complimenti. Il piccolo di Gorizia e Monfalcone apre con il primo consiglio comunale di Gorizia. Il primo consiglio senza contras è il titolo, Ziberna bis al via. Dal precedente mandato rientrano solo 2 su 6 dei componenti definiti malpancisti della precedente maggioranza. La fotonotizia in alto è invece sulla siccità, Isonzo a secco, aiuto a Salcano. Le altre notizie in prima, lavori e disagi per la mega rotonda del Porticciolo Sauro a Monfalcone e una tragedia a Punta Sdoba, turista svedese muore annegato. Poi il caso dell'esibizione delle violiniste russe escluse dalle Lipitzer, applausi al concerto. Siccità, ecco chi resterà senza acqua, il titolo prima pagina dell'inserto del Gazzettino di Pordenone, che citando uno studio della regione sottolinea come le possibilità di irrigare siano garantite fino ad agosto e che alcuni bacini idrici sono già esauriti. Foto di centropagina dedicata al trasporto pubblico con rivoluzione di orari e percorsi degli autobus. Per i temi della pandemia, nelle colonne di sinistra è il blackout che ieri ha bloccato la distribuzione delle quarte dosi con le farmacie ferme fino a alle 16. Nella colonna di destra 2 richiami dedicati al lavoro. In alto sono 22.000 le assistenti domestiche, 1.700 gli uomini. E sotto il Movimento 5 Stelle solo 18 comuni sanno usare il reddito. Da Sacile poi la notizia che la città attrae nuovi abitanti e dopo anni supera quota 20.000. Cinema a Gorizia, al via la 41esima edizione del premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei, che proseguirà fino al 21 luglio. Protagonista della prima serata, il regista francese Michel Hazanavicius, premio Oscar per The Artist, che riceverà il premio all'opera d'autore nella cerimonia inaugurale che si terrà dalle 21.30 in Piazza Vittoria. Durante la serata sarà proiettato proprio The Artist, ma le proiezioni di giornata cominceranno già dalla mattina nell'avvio delle altre sezioni del festival e nel pomeriggio saranno proposti anche altri 2 film di Hazanavicius. Sarà presentato questo pomeriggio alle 18 nella sede del Centro Studi Pasolini di Casassa della Delizia il portale online Pasolini Bibliografia Friulana, un innovativo strumento per conoscere le opere di Pierpaolo Pasolini che hanno un diretto rapporto con il Friuli, promosso dal Centro Studi Pierpaolo Pasolini e dalla Società Filologica Friulana con il coordinamento di Pier Giorgio Sclippa. Ed è dedicato proprio alla poesia dell'intellettuale dalle radici friulane anche il dialogo fra i poeti Daniele Orso e Gianmario Villalta in programma alle 21 all'Auditorium Biagio Marin di Grado, secondo appuntamento del progetto Viers Pordenon e il Monte Pierpaolo Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia italiana. Da un testo di Pasolini anche tratto lo spettacolo Questo è il tempo da cui attendo la grazia di Fabio Condemi, Gabriele Portoghese, in scena stasera alle 21 alla Sala Bartoli della Politeama Rossetti di Trieste per il festival estivo del Litorale. Gli appuntamenti di oggi alla stazione di Topolò sono un viaggio dentro il Friuli Venezia Giulia. Al tramonto, verso le 7 della sera, nella piazzetta centrale, Antonella Bukovac incontra il poeta e traduttore Ivan Krico. Con il buio al cinema, l'antropologo Davide Degano presenta invece il suo progetto Sclavani, comprendente un cortometraggio e un libro. A seguire lo storico Tommaso Chiarandini presenta il volume Immaturi, sleali, violenti, immagini e linguaggi dell'antislavismo fascista 1919-1937. Udine Jazz porta nel capoluogo friulano stasera alle 22 al Palamostro il trio Vianche River con Anisi. La formazione ha ricevuto critiche entusiastiche dalla stampa specializzata. I loro concerti, è stato scritto, hanno definito il nuovo standard dei tri con pianoforte. La serata sarà aperta alle 20 dagli italiani Cimun Tiger che nel progetto scenario coinvolgono con la proposta musicale anche le arti visive e performative. Al camping Girasole di Aprilia Marittima, al via la One Love Reggae Reunion, grande raduno reggae che proseguirà fino a sabato con eventi dalle 10 alle 21. Fra gli ospiti principali musicali, stasera ci sarà il DJ inglese Mad Professor, domani il romano Brusco, sabato i salentini Sud Sound System. Il filosofo Stefano Zecchi presenta a Grado il romanzo Fumetti Una vita per Pola, adattamento del suo romanzo Quando ci batteva forte il cuore, alle 18 al Velarium della spiaggia Gito. L'immunologa Antonella Viola presenta a Lignano Pineta il suo ultimo libro, Il sesso è quasi tutto, evoluzione, diversità e medicina di genere, alle 18.30 al Pala Pineta del Parco del Mare. E lo scrittore Paolo Roversi presenta invece a Cordenons il suo ultimo romanzo giallo, L'eleganza del killer, alle 21 nel giardino del centro culturale Aldro Moro. Il coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina in concerto stasera alla Cattedrale di San Giusto a Trieste, inizio alle 20.30, penultima tappa del tour in regione della formazione musicale che ha sede in Vaticano e si occupa dell'accompagnamento musicale delle liturgie presiedute dal Papa. Domani l'ultimo appuntamento a Spilimbergo. Fa tappa stasera a Udine il Cineconcerto per la Pace organizzato dalla Giornata del Cinema Muto con Cinema Zero, Visionario e Cineteca del Friuli. Alle 21.30 all'Arena Loris Fortuna in Piazza Primo Maggio sarà proiettato con accompagnamento musicale dal vivo il film muto sovietico Vesnoi, Navesni a Primavera di Mikhail Kaufman, opera del racconto La fine dell'inverno e del disgelo in Ucraina. L'incasso della serata sarà devoluta a Vostok SOS, organizzazione non governativa di Kiev. Domani invece il film sarà proposto al parco di Via Dante a Gemona. Per Suns Europe, il Festival delle Lingue Minoritarie, in concerto Sara Zosaia dai Paesi Baschi alle 21 nella Corte della Biblioteca di Romans di Sonso. Invece al Palazzo de Senibus di Chiopris Viscone alle 21.30 per Nei suoni dei luoghi e in collaborazione con Carni Armonie in concerto il trio internazionale Solo Way. Con lo spettacolo di danza aerea Non tutti sanno che On Air della compagnia barese Res Extensa parte stasera a Udine la rassegna di danza urbana della compagnia Areare. La performance è in programma alle 22.30 in largo, Ospedale Vecchio. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano UEO Fevelin D che parlerà dei 4 nuovi presidi Slow Food. Alle 11.19 circa Vintage D con Carlo Muscatello e Leonardo Zannier, il nostro viaggio nella memoria in bilico fra passato e presente. Ad aprire la seconda puntata è Renato Pontoni, fondatore e leader della Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG. Secondo ospite Alfredo Mattarelli, negli anni 70 e 80, showman e comico. I programmi regionali tornano poi alle 14. Era questa la nostra ultima notizia, ha collaborato in redazione Laura Sarasini, per la parte tecnica Mauro Cumin e Maurizio Mona. Da Ludovico Fontana e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.